Senato, positivo il Caparrodi, sperando che tu mi ascolti, dai, sperando che tu mi ascolti in condizioni precarie qua, gatto. Vero che un grande modulatore abbiamo acquisito. Grande masturbatore, gatto. Se caio. Bocca, buono, occhi con una defotturata. Le proiette. Gianni ciò chi me le fa, c'ho problemi da lì. Antonio Bombolino, se io mi faccio prestare il 1000 da Claudio, ti faccio uscire il fumo dalle mutande, capito? Che è robistica. Avanti. Perfetto. Buonasera a tutti quanti, cazzo, il componente del canale 10. Buonasera a tutti. Componenti, cazzo, mica su con Dio dovevo. Claudio, l'ho preso il... Ciao Giuseppe. L'ho preso l'amplificatore, Claudio. Faccio scegliere un po' di mutande qua, gatto. Quando voi, Lucarie, non ci stanno problemi, capito? Non ci stanno problemi. Quando voi, vieni a prenderlo, perché è pesante e io non te ne porto. Ciao, Peppi. Beh, sto bene. Cazzo, mi sono avanzato io a pesa. Sei pesante, pesante, un bel, mi ha preso una cimitiano due volte, è un bel pesante. Infatti me l'ha messo lui sopra lo Iaesu, quello HF, perché non lo tocco più da lì, che è tempo cubice. E beh, per via, poker, vista la partita di poker. Già l'ho vista, per carità. E vabbè, è andata male, classe, è andata male, vabbè, pazienza, dai, ci rifacciamo la prossima volta. Ma ancora il capo di Bugnetti era. Poi lasciamo perdere. Bombolino, cosa dici? Ma cazzo, Luca mi vuole sfidare. Luca lì mi fa la bubua, mi fa, Se viene qui a prendersi quel mostriciattolo, mi fa la bubua, mi... Lasciatelo stare in pace a Luca, che corre mezzo maniaco. Allora, Cla, non basta che quello piccolino, il mio 131. Faccio uscire un po' di fumo d'acqua, capito? Antonio Bombolino, se metti antenna allora, mamma mia, lì è la paura, Se metti antenna lì siamo fregati, capito? Inutile che uno abbia un apparecchio di 10.000 euro quando non c'è antenna, no? Non fa niente, cosa fa? Però se uno ha un'antenna dove Dio, come Dio comanda, con 5 watt spacca il culo a chi ne usa 1000. Guarda, io dico una cosa, mi metto un'antenna come Dio comanda qua, mi metto il capo come quello che c'ha Claudio. Quando dici che amplificatore da 800 watt, da poi non che non fumo te lo potessi davvero. E piano questo fumo, che sennò ci bruciamo. Già ne ho più rotte le prende, quindi ci è andato a male e adesso ti stai rilassando. Sì, ho guardato la partita, ho fatto una doccia, ho guardato la partita e pensavo di riuscire a festeggiare, invece mi è andata male. No, ma io l'ho vista subito, non pensavo che ne prendesse 4, pensavo la verità che riuscissi addirittura a rimontare i due gol del primo tempo con l'ingresso di Natale, e invece poi siamo rimasti in 10, è chiaro che si è scoperto e la Spagna sono veloci, cazzo, vanno un attacco micidiale. Ma non li ho visti che da metà campo non usciva. E da lì me ne sono accorto, ho detto boh, questa partita è persa perché non ci fanno uscire a metà campo, non venuta da va. Hanno un bel gioco, sono molto coalizzati e molto veloci soprattutto. Vabbè, io al secondo tempo, io, direttore tecnico, al secondo tempo avrei messo Diamanti di Natale, fuori Ballottelli e Cassano, la Cassano tra Bugatti e la sala Ballottelli che era un mulio. Capito? Quindi avrei messo Diamanti di Natale. E forse qualcosa sarebbe cambiata, invece. Purtroppo sono loro che comandano, sono loro che fanno la differenza in campo. Pazienza, pazienza. E Giuseppe, riprendi. Scappa, giustamente, è come hai detto tu. Rip ha sbagliato formazione, vabbè, a parte gli infortuni e tutto quanto. purtroppo è andata così, tra, ecco, da voi. A domani è un altro giorno, pensiamo che dobbiamo andare là e guadagnarci la nostra pagnotta, hai capito? Poi loro possono fare quello che gli pare piace. Oh Giuseppe, ma la brittella agganciata al palo idraulico, l'hai messa una brittella? Cosa ti manca a te, Lu? Ho detto, l'hai agganciata la brittella al palo idraulico. Non ho il palo idraulico io, hai capito? Io ho il palo lungo. Ma idraulico però. Come è relativo? Ce l'ho io il palo idraulico, l'antenna tu non c'è il palo lungo, ce l'ho io il palo lungo. E vabbè, lascia perdere lungo. Si chiama telescopico, non idraulico. Beh, vabbè, libro di un club. E idraulico ce l'ha accorso. Ma che cazzo gli chiama? Algherese, come si chiama? Ivan. Cosa Ivan? Come si chiama Algherese, no, troppo, quello che scongela il pane con il fondo. Non mi viene. È stato troppo che non entra financi. Veramente lo vedi? Io dico che si non mette a vedere la calduca. Proprio tipo sai che mi non mette a vedere la ridita. Ah, sui capelli. Ci sono bastato, per carità. Devo sapere, raga, pasticisti qua. Cazzo è se non mi rendo? Ora è andato io dove eri piccita appannati. E tu mi dici a te, col pane congelato, poi il pane grosso, capito? Congelato, cazzo, mi piace con i capelli. E noi mi vedo un po' in mezzo all'anchi. Poi una dopo l'altra. Io pensavo che il foro stesse torendo perché mentre che aveva fatto il bagno al cane lo volesse asciugare. Invece quando la gente c'è con un bagno, c'è un grembato. Poi sto cercando di calmarmi perché non ce la faccio più. Perché fra poco diventavo sguagliato. E gli ho detto, ma che cane è? E lui ha detto, mi ha detto, un cane, in chi mi non mi ha giocato più. Ma come ha detto un beautiful? Ma Rita c'era o da solo era? Bastardo che sei. No, c'eravamo io, Natalino, lui, era la volta che ci aveva fatto i funghi, ti ricordi? Io mi ricordo, sì. Se ne è bucato un po' di cose. Sono tantoni, panettone, pandoro, poi vini, birra, formaggio, olivermi, salsiccia, che cazzo sono bucato, tutto, la vacca piena, lì mia, un stuzzichino, cazzo mi dà poca di cosa. Allora veramente siamo andati noi a prenderlo per andare in pizzeria, non c'è voluto biglietto, non ho tanto ritto su che sta guardando il televisore, ci facciamo un assaggino di qualche cosa, accontentatevi, mi ha fatto i funghi stasera, ce li facciamo, cazzo magari domani volevo assaggiare i funghi, quella casa si erano mangiati due. Ma secondo me vai in ferie e ci andiamo con Luca già. Io tu Luca, ma portiamo anche Giuseppe, così lo conosce. Le sistemiamo questa antenna, se no non entra più lì. Ma l'ha già detto un paio di volte. Lugarie, ci andiamo da Pino. Mi piace quando va in ferie Gianni. Una sera che fa fresco. Ci andiamo, gliela sistemiamo questa antenna. Ma che sì, cosa vuole, nuova? Ehi, non c'è problema, basta farmelo sapere. No, già, lui mi ha detto praticamente che riceve e trasmette però basso, tipo come era quella di Giuseppe, vuole abbassata e non so se sia qualche filo staccato, nel cavo, non lo so, comunque viene bene, non c'è problema. C'è il terrazzo, io mi ricordo che c'è il terrazzo, lui ci ha detto che ha visto le tegole, ma le tegole devono essere della copertura della mantovana, quella di sopra, non so. Comunque noi ci andiamo e vediamo un po', ma piccolo e la sistemo questa antenna. Se poi vuole nuova non ha problemi di bilancio. Mi dai i soldi, gliela compro, gliela piazzo. ma io mi ricordo che la torretta è il punto dove l'aveva messa, era tipo una torretta. Esatto, ti ricordi? Quindi se c'è la torretta lì ci deve essere, non ce n'è tegole. Se non mi ricordo male, comunque una volta solo sono passato da dietro, di solito ci faceva entrare dal giardino camuffato col cancello con l'erba. E dalla rete con l'erba attaccata. Che se lo viene buttato un cazzo sono cose, ma camuffata, e aveva messo l'edera e le ha fatto il cancello, si è fatto l'entrata. E dalla cucina entravamo sempre, noi da dietro, mi pare una volta solo con Luca siamo entrati da lì, che poi ci aveva accollato, altrimenti lui sa la Zotti Masci, giocava con la Zotti Masci, si è italiano. Ia, c'è la macchietta a casa. Io l'ho fatto, volevo sapere se dicevo colpo, ma la sua antenna che fine ha fatto? Vabbè, lì zona di mare, poi la Sardegna c'è la Magna proprio, anzi noi siamo fortunati, siamo distanti dal mare. Lì la Sardegna è da cazzo di 2 anni, dice la Magna. Vabbè, fatemi sapere, quando siete pronti non ci stanno problemi, capito? Dicevo un colpo di mano di diamo, non problem, vabbè. Si è andata in clip l'antenna quando aveva fatto quel vento forte, boh, ha stracciato il cavo, qualcosa è successo perché mi ha detto che poi non ha funzionato più dopo quel vento, capito? Ce l'ho mai strada una volta allucinata. L'antenna è attaccata, bisogna controllare cosa c'è. Portiamo il test, l'attrezzatura e la mettiamo a posto, perché non c'è nessuno, capito? Non c'è nessuno, l'ho detto anche a Valerio, da poco, quindi deve salire Claudio, con la greffa di sassa e mettermela a posto. Gliel'ho promesso, bisogna che andiamo, a lui già ci conosce, a me e a Gianni. Portiamo anche Giuseppe, così lo conosce, le racconta due barzellette. Giuseppe, se lo senti a Finangelo, è tipo belli capelli. No, lascia parte. Già di 4 ce n'è uno, no, non voglio conoscere il secondo. Vabbè dai, diciamo che il palo idraulico fa bisogno, Palo telescopico idraulico, guarda. Giuseppe, come mi ascolti con questo barracchino? Cosa ne dici Giuseppe? Mi gira o non mi gira, guarda? Ti gira bene. Con gli orecchie ti ascolto Luca. Ma come gira però? Come gira? Dici, me l'ho detto che sembra platinetto quando parlo, gatto. Questo me l'ha detto Claudio, mi è bastato che... No, gira bene Claudio. Va Claudio. Luca, gira bene. Però ti devo dire una cosa. È molto più forte quello di Claudio, E lo so, ma Claudio è fino a più, no? Questo gira bene, infatti mi hai già girato i coglioni. Infatti mi gira di giollo. Non fa cazzo di orecchie. No, vabbè, anche quello gira bene. Gira bene, il mio c'ha il doppio modulatore, ma girano bene tutti e due. Gira bene. Già vanno bene, no, questo lei non l'attacco, mamma qui giocate mentre con le mura, fa un casino nero, poi io non uso le cuffie, quindi anche se chiudo la stanza qua non gira l'aria e mi si girano le balle. Cosa hai detto Bombolì? Aspetta, se non me ne dimentico, scusa Antonio. Già, mi dicono un favore grande, ma grande, io ti do i soldi, non c'è problema. Mi devi acquistare una cosa su eBay perché a me mi hanno bannato. Cosa? Un display, ti do il nome del display, costa 10-12 euro mi sa. Ti do i soldi e me lo ordini e te lo fai arrivare, poi quando arrivo me lo dai. Ehi, dimmi, non c'è problema. Vabbè, ma ti devo mandare il link però, aspetta, l'ho salvato qua. Vediamo un po', aspetta. L'ho messo qua. Ti devo mandare il link in privato. Se me lo ordini mi fa un favore, di più. Perché a me non... Cioè non è che mi hanno bannato, praticamente ho cliccato su compra su... compra. Cazzo, ma dammi il tempo però. Devo anche... come si dice? Aspetta un attimo, abbasso l'eco. Devo anche compilare. Non mi hanno dato modo neanche di compilare. Io ti devo mandare il link, vediamo un po' se è qua. Allora, vediamo un po', non c'è. Dai, comunque te lo mando. Così, tu lo ordini. La spesa mi sembra che sia finita a 12 euro. E come il pagamento? Veramente mi sembra che avevo la posta bene. Poi la mia me l'hanno clonata pure oltretutto. E io posto bene, non è ho. Vabbè, poi lo paghi diversamente, cosa vedo? Con cosa fai? Tu con cosa compri, scusa? Contrassegne, Ah, io non lo so fare già, cazzo, non lo fa per favore. Eh? Dico, ma lo fai, sì o no? Sì. Ma se lo fai in contrassegno, no, chi? Sì. Però posto bene, non ne ho io. Certo, poi se lo faccio in contrassegno, lo fai, tu fai finta che lo stai comprando per te. Scheda audio, no, non l'ho salvato. Vabbè, domani scrivo. Adesso non lo trovo, cazzo. Aspetta un attimo. Ma cazzo di mio nonno, mi è entrata una vita in culo, cazzo. Ho appoggiato le viti di quel coperchio tuo, Giuseppe, nella sedia, quella in vano, perché quella in pelle mi stava attaccando tutto il culo alla sedia. E a luglio c'erano le viti, mi è entrata una vita in culo, un dolore, che. Allora Gianni, guarda, display del Nokia modello 5000 D trattino alto, cioè centrale, allora 5000 trattino centrale 2, e lì ti appunti dal display, aspetta che salgo la pagina, e tu così lo fai, non so come fai, Giovanni, sbaglio, capito? Aspetta, che lo devo scrivere, perché sennò non me lo ricordo dove sono. Che me lo scrivo, eccolo qua, a questi veloci si vede bene, display LCD, perché se c'è qualche numero lo ordino io, ma non l'ho trovato, eccolo qua, ecco, sia questo qua, 11,90 euro costa, però si vede bene sempre, non sempre si vede bene, aspetta, vediamo un po', se c'è qualche numero, non c'è un cazzo. Allora, display LCD, schermo nuovo, specifico per Nokia modello 5000D, questo qua, sì. Non c'è il numero, né niente. Buon acquisto, grazie. Vediamo un po', aspetta. No, non c'è niente. No. Importante, se... No. No, se, guarda, se mi fai questo favore, io, se vuoi ti salvo il link, te lo mando per posta adesso di via Facebook, coppia. Te lo mando? Sì. Okay, no. Poi mi dai conferma che l'hai comprato, che l'hai acquistato. Vediamo un po', aspetta però. Adesso è attaccato. Vabbè. Allora, dovrebbe essere quella. Allora, l'ho smonto un attimo così ne sono sicuro. Adesso stai smontando il link. No, il display là, perché l'ho appoggiato adesso. Se avete problemi con la posta in pecero io e la PayPal. Casino, qua. È un casino, perché me lì, non lo so, non mi fa più comprare perché, ripeto, ho sbagliato. Scusa un attimo, se uno sbaglia, compra subito, mica è costretto. Fallo compilare, no? Perdi il tempo di compilare, se fa le cose giuste, no? Una volta che tu clicchi, compra subito, lo devi comprare per forza. No, lui, cazzo, se tu clicchi compra subito, automaticamente parte il tuo nick, scusa, se tu perché hai cliccato compra subito, lui ti chiede i dati e tu li devi dare, se hai cliccato compra subito, devi comprare. Da voi ti dica, vediamo un po' se questo qua, se non è questo, ma dovrebbe essere questo qua, perché, non mi sa che, allora, davanti di coglioni che ah sì è quello sì è quello già se te lo mando dai è quello poi tu vai alle poste ti fai dare il bollettino post pay perché non ne ho e lo compili basta dare i soldi alle poste e fanno tutto loro cazzo già lasciamolo fare due è meglio. Andiamo assieme, se sei libero andiamo assieme, poi vedremo come si fa. Così la prossima volta so come devo fare. Cioè tu devi pagare con PostPay, ti deve mandare il numero di PostPay. scrivi il nome e il numero di posta P del tipo e poi il nome e l'indirizzo tuo. Hai fatto il gioco. Ma no, per l'acquisto mi interessa, ma comunque ti sto mandando il link in privato, eh. Allora, basta, ok. Allora, te l'ho mandato, c'è anche tutto. Guarda se ti è arrivato, se puoi dare un'occhiata. Rispondi. Qua, display LCD Nokia 5000 D2-, Supernova, costa 12 euro già, 12 euro, finito di spesa. Anche con le spese posta? Finito di spesa 12 euro, già, yeah. E ci sto guadagnando 15 euro, vabbè. Sì, ma devi contare che quando fai la posta qui paghi anche 7 euro, mi pare, di costo, di spedizione, vale. No, conflitto di spese, c'è scritto già, controlla. Se l'ho chiuso adesso, aspetta, ci controllo io di nuovo. Ah, c'è un triguglione, cazzo, di questo. Vabbè, ma me lo fa cliccare. Aspetta un attimo. Beh, fai girare, fai girare. Avanti, qua. Avanti, Giuseppe. Ah? Cosa hai detto? Non ho capito. Ho detto vieni avanti. Ah, almeno domani. Domani ci vediamo con Sandrino, giù al Ghero, ci prendiamo il caffè. Allora, aspetta, scusa un attimo Claudio, allora, scusa un attimo, due secondi. Dovrebbe essere, no, questo di più, 11 euro, consegna stimata entro 3-5 giorni lavorativi, non trovo Italia, aspetta. Pagamenti PayPal, vai a postare, vedi informazioni di pagamento. Aspetta, controllo. Cosa? Le spese di spedizione? Saranno 1 euro, saranno 2 euro, non di più. Allora, lui accetta Visa, Mastercard, PayPal, PostPay, Aurora e ricarica PayPal. Protezione integrale, non accetta. Accettato, non disponibile. Allora, voglia postale e bonifico bancario. Voglia postale e bonifico bancario, quindi devi fare come ti ha detto Gianni. Devi fare come ti ha detto Gianni. Praticamente dobbiamo fare il coso del bonifico. Ma non so come fa, cazzo. Mica avevi domanda, tu. Cioè, non avevi chiesto a nessuno. Che palle, ragazzi, mi serve, vedi, lo metto apposta per dopo. Più di 10 disponibili, 149 venduti. E se io clicco su compra subito, poi come cazzo glielo pago, non c'ho la posta pay. Non lo so come. Io domani mattina sono incasinato. Allora in banca devo andare a fare altre commissioni d'ufficio, se non te l'avrei fatto io. Non lo so, già, come cacchio sta cosa? E non accetta se non c'è la post pay, lui basta che faccia il bonifico sulla post pay di quello che sta vendendo la roba, si fa dare il numero di post pay e di fare il bonifico, che problema c'è? Aspetta un attimo, vediamo un po'. Non faccio il numero se non c'è più, affanculo, grazie. Vediamo, passa, clicco qua. C'è un numero di telefono prima di un cellulare, adesso non c'è più. E poi non l'avrei chiamato. Allora, pagamenti. Quantità 1, modifica Italia. Ok, allora, spedizione gratuita. Vediamo, sono 10,90€, 4,90€, che cazzo. Aspetta, allora 3-5 giorni lavorativi, gratuito il coso già. Spedizione, tutto compreso. Non le so spese di spedizione, la tassa che paghi sulla posta P è una tassa fissa che si paga quando tu fai la posta P e paghi sempre quel tanto l'inti. È stato sempre così. Poi che adesso l'abbiano tolto, che cosa non lo so, però quando tu fai la posta P paghi un tanto in più sempre del bonifico che fai. Comunque ascolta, aspetta, allora. Coppia, incolla, aspetta un attimo, le nocchia, ma adesso vediamo un po'. Allora, comunque, vedilo tu, se riesci a rintracciare magari qualche numero originale completo di Disney Nokia 5000 di 35 euro, cazzo, originale, ma non ha fatto un cazzo in originale. Comunque il primo, no il primo, il terzo e quarto, sempre Supernova, aspetta un attimino, vediamo un po', ma come faccio il numero, adesso non c'è più, ma quanti cazzo può essere? Sarà un altro. Ah, ecco qua, ecco, c'è. Non c'è neanche credito, vaffanculo, facciamolo. 380-10-25-095. iPhone. Audio System, SRL, via Cesare Battisti, 159, Messina. Vediamo un po' se c'è il numero fisso. Un telefonino social. Tu chiama la telefonia e dici se te lo puoi spedire in contrassegno, che non c'è nessun problema, che glielo paghi. Se te lo spedisci in contrassegno te lo fai spedire così, che è più semplice, ti arriva direttamente a casa e via. Infatti, adesso devo aspettare, Non basta andare alle poste e chiedere un modulo per fare la posta qui. Un modulo. Si compila, non c'è problema per quello. No, ma io lo so, ho capito che ci vuole un modulo, ma però bisogna contattare questo qua, fammi spedire il pezzo, quello non lo so fare. Non telefoni, cazzo. Ah, sai, lo fai per telefono, ci ascolta, ma mi interessa questa cosa, me la puoi spedire? Ecco, tutto lì, Oppure per contattarlo c'è scritto, contatta utente. Ah, bello. Clicca su compra subito, poi c'è scritto contatto utente, contatti l'utente e vedi cosa dice, se c'è il numero di telefono, e se no c'è scritto scrivi all'utente e le mandi un messaggio. Vabbè, fai finta che lo sta acquistando tu, già poi te ne do io i soldi, non ci sono problemi, c'è problema dei soldi. No, non c'è problema. Non è quello il problema. Il problema è fare i pagamenti, perché io quando li faccio questi pagamenti, se lo fai tu il pagamento, ok, non c'è problema. Allora tu metti in contatto con questo qua, fallo tu, compra subito, cliccaci tu. Poi mi dici cosa devo fare, il muso, qual è, io poi ti faccio il pagamento. Dopo arriva a casa tua, quando ti arriva me lo dai, non c'è problema, capito? Poi guardo a vedere, continuate a modulare che sto guardando, me l'hai mandato. Infatti portaglielo tu già, intanto lui già ha 3 giorni di tempo per fare il pagamento. Quindi tu fai acquista e poi una volta acquistato lui fa, si arrangia per fare il pagamento. Capito? Poi domani mattina lui, io sono incasinato, ma dopo domani non c'è problema. Adesso guardo domani mattina, poi se c'ho io qualche foglio di posti qui, non lo so. Vediamo. Oh, bomboliti, prendi. La scappa. Sa che mi saluto, ti auguro una buona notte, perché domani è un altro giorno diverso, dai. Ehi, è mezzanotte meno 20 è già. Vabbè, no, esce, non mi ricordo che c'è troppo caldo. Più tardi, va bene. Avanti, Giuseppe. Papa, stavo dicendo, cosa ha detto Sandro che domani mattina ce n'è di Guagliero? Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, Anto, ciao, ci aggiorniamo domani, buonanotte. Alle prossimine. A me mai dovrebbe andare a Sant'Evolo domani mattina. E poi faceva un soldo all'Alghero, o prima forse all'Alghero, non lo so. Io alle 8 c'ho appuntamento con Giuseppe, come si chiama? Non mi ricordo il nome nativo, che mi deve consegnare roba che ha mandato Roberto, siccome deve scaricare qua la Dico, vicino a casa. Allora alle 8 c'ho appuntamento con lui, dovrete avere questa roba che ha mandato da Cagliari Roberto, e poi devo andare in banca, devo andare a fare altre cose domani mattina, mi libererò a mezza mattinata, là. Scappa, vabbè, non c'è problema. Vabbè, no, non è quello che io già sono giù. Già sono giù, no, al volo, dunque. Va bene, dai, signori, al limite ci sentiamo domani sera, come rientro dal Ghero verso le 5:30, sì, strada facendo, e faccio chiamata 77. Va bene, per adesso vi auguro la buonanotte a tutti e una buona giornata per domani, dai, quelli qui per me, ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, ma quindi vai, hai accettato? Scappa, beh, giustamente ho accettato qua. Non c'è altra cosa là, purtroppo i soldi sono quelli lì, e a meno quelli a fine mese me li prendo, capito? Non sono molti, però quelli che mi dà mi prendo là, devo stare attento a non farmi futti, hai capito? A farlo, a farmi la mettere tutto di dietro, hai capito? Te l'ho detto, comunque già ti ho detto anche Sandro, stai attento, contatta prima e vedi un pochino, perché uno che lavora deve essere pagato, non deve essere preso per il culo, ci mettono i barili per la divisa, no? Quindi stai attento, occhio alla penna. Ci aggiorniamo domani, comunque io poi quando ho finito ovviamente ti faccio un colpo di telefono, vabbè. Ciao, vabbè, non c'è problema, ok, dai. Va bene, dai, intanto domani mattina mi porto l'apparato presso e tutto quanto assieme, dai, ok, al limite ci sentiamo per radio oppure per telefono, là. Carta di rosmetro, già va bene, non ci stanno problemi, dai, ok, ottimo per la truppa. Ciao, di nuovo, buonanotte a tutti quanti. Ciao Giuseppe, come si lavora? Cappa, e beh, si rientra alla base dopo un periodo di ferie, Luca, si rientra alla base almeno. Almeno per ricimolare qualcosa, Luca, senza, non puoi andare avanti con 500 euro, hai capito, Luca? Con 500 euro che ti tira mia madre di pensione non puoi andare avanti, capito? Lo so, ma è proprio, stavamo nel cantiere? No, entro giù a Alghero, capito, Alghero, entro dove stavo facendo sempre il guardiano, adesso mi sta chiamando di mattina perché di notte no, non c'è nessuno, hai capito, no, non c'è gente, insomma avrebbe fatto venire, andare già di notte, capito? Ma lì a fare la guardia agli ombrelloni? Cappa. Vabbè, vogliamo vedere se paga bene. Quello va bene, speriamo Luca, speriamo una mano di buona, vediamo un po' cosa ne esce fuori. No, ma guarda, a te è buona, a me è buona. Diciamo, il primo mese è stato abbastanza onesto, non c'ho niente da dire, però l'ultimo mese alla fine ci è fatto vedere per questi soldi che mi ha, alla fine che mi ha bruciato, capito? Allora, se uno mi vuole a me per fare il guardiano degli ombrelloni, no, nel notturno, non mi deve dare meno di 1200 euro. Mi sono pochi come a te, sì, però non mi deve dare meno di 1200 euro al mese. Non so, vabbè, però, Luca, io ne ritiravo, l'ultimo zeppino avevo ritirato 1100 euro, capito, l'ultimo, però erano altri soldi che mi doveva dare per delle straordinarie, capite, che avevo fatto. assicurato contro incendio? No. Erano soldi che mi doveva dare, capito? Dall'ultimo stipendio. Dunque, non dico altro. Va bene, dai. Ci aggiorniamo domani con calma. Ciao, buonanotte a tutti. Quarenti per me, dai. Ciao Giuseppe. Luca, non è arrivata lì, mi sono andata a controllare, non ce n'è. No, tu mi hai dato il libretto, mi hai dato il coso sul privato già. Finiamo a baranuglia. Vediamo un po' se me lo fai inviare qua. Aspetta. Guarda, sto mettendo una bacchecca principale, controlla, vedere, CRS pubblica. Ok. Aiuto, ce la me ne balla. Guarda, l'ho pubblicata adesso, controlla. Fai copia e incolla e tu lo metti nel lì sopra il link. Lui ci sta andando a letto perché c'è già mia moglie a letto, sono disturbato. Già contro domani mattina e domani sera vedo di fare il tutto. Dai, anch'io vi saluto e ci aggiorniamo domani, io vi è già tardi. Ciao a tutti, ciao Luca, Giuseppe, Bombo, a te Gianni. Ci aggiorniamo domani, signori, da parte mia, guerra e tango, bye bye. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte a tutti, domani, ciao, grappa. Fai già, Gianni, come sta per qualcosa? Fai questa cortesia. Ok, ciao, buonanotte a tutti. Grappa, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao Claudio, ciao. Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao.